A noi piace molto lo stile diesel, ci piace pensare che lo stile diesel possa essere applicato nell'abitazione. Già Diesel aveva un progetto casa che aveva coinvolti marchi importanti quali Moroso, Foscarini, Zucchi, e abbiamo pensato insieme a loro di poter completare l'offerta anche per ciò che concerne la cucina componibile, una cucina dal gusto un po' vintage, un po' molto materico, proprio nello spirito Diesel, molto adatta comunque ai mercati internazionali, ma certamente anche al mercato italiano. È una cucina sociale, una cucina dove ci si incontra, dove si può appunto chiacchierare, avere party, feste, piuttosto che semplicemente bere una birra insieme, mangiare qualcosa insieme. È una cucina appunto aperta al living room, è una cucina che è adatta comunque agli spazi che sono spesso comunque presenti nelle case del mondo. Scavolini è da sempre un'azienda volta alla ricerca, sono tanti i filoni di ricerca che abbiamo sviluppato negli anni, collaborazioni con designer internazionali, stili diversi, posizionamenti diversi di mercato. Scavolini è una cucina per la gente, per tanta gente. Scavolini comunque lavora con negozi monomarca spesso, che quindi in ogni caso hanno offerte veramente per tantissime persone. La voglia in questo caso di abbinare il marchio Scavolini al marchio Diesel è una voglia appunto di sperimentare uno sviluppo progettuale che da questo punto di vista c'era complesso. In questo senso la collaborazione con Diesel ci ha permesso di mettere a punto un progetto, un prodotto veramente in ogni caso dedicato a un target che fino ad oggi nell'offerta Scavolini magari faceva un po' fatica a trovare una proposta adatta alle proprie esigenze, alla propria aspettativa.